mangiate. People, questo è Jolly Roger, finalmente è venerdì, il nostro venerdì. Buon pomeriggio a tutti e tutte, un saluto a tutti i colleghi, tutti gli amici, tutti gli ascoltatori, un salutone a Gemini Network e Radio Grad che ci supportano. Iniziamo questa nuova puntata, un venerdì appunto abbastanza uggioso, con qualche sprazzo di sole, ma finalmente è venerdì. E iniziamo questa nuova puntata. Il tema di cui racconteremo, racconteranno i ragazzi, parleremo di sogni, i nostri sogni e le nostre speranze. Però intanto iniziamo con il primo pezzo dedicato a tutti quelli che hanno ancora energie per affrontare questo lungo weekend. Thank you. torniamo in diretta, primo pezzo di Jolly Roger di questa nuova puntata, prima puntata del mese di marzo e piano piano ci avviciniamo anche alla nostra centesima puntata, eh sì, poi spoileremo in tempo reale quando appunto sarà questo grande evento della centesima puntata. Iniziamo oggi, appunto, il tema della puntata sono i sogni, ma non tralasciamo le nostre consuete rubriche. Una delle più importanti è quella, perché ho qui davanti a me Alice, a cui passo il microfono. Sono 6 consigli sulla bellezza, quindi passo direttamente il microfono a lei. Allora, io oggi parlerò di una crema, che praticamente questa crema è una crema corpo che levica, cioè, ma una crema corpo perché aiuta a non far prevenire Le rughe. le rughe, Senti, ma è perché un prodotto che si usa prima o dopo la doccia? è un prodotto che si usa dopo la doccia. E praticamente questo è un prodotto che si usa dopo la doccia, perché praticamente quando vengo dopo che uno si è fatto la doccia, è normale che le rughe escano, Anche un po' la pelle, un anche po' un di po' pelle la screpolata, po' di quindi. pelle scivolata esca un pochino. Perfetto. Senti, questa crema dove la possiamo, dove si può comprare? Ticotà. Ok, prezzo pure se lo, te lo ricordi? 3 euro. Costa praticamente 2,30 euro. Ah, perfetto, quindi è un costo abbastanza contenuto. Senti, quindi è consigliabile sia a uomini che a donne? No, sono donne. Perfetto, gli uomini li diamo le cremette loro. Senti, allora andiamo con un altro, con un secondo pezzo di Jolly Roger? Allora, sì. E poi ritorniamo a farci un'altra chiacchierata. Agli occhi che mi uccidono, lo sai, però mi fai sentire il brivido di stare bene, di stare insieme. E non è una bugia di quelle che si dicono per nostalgia o solo per sputare via il veleno, che tanto è tutto vero. Non mi piace niente, ma tu mi togli il respiro. Apnea. Scusami, non parliamone più, c'hai ragione tu. È colpa mia se adesso siamo in bilico, ma è colpa tua. Hai gli occhi che mi uccidono, lo sai, però mi fai sentire il brivido di stare bene, di stare insieme. E non è una bugia di quelle che si dicono per nostalgia o solo per sputare via il veleno, che tanto è tutto vero. Non mi piace niente, ma tu mi togli il respiro. Apnea. Fare tutto quanto il weekend, senza fare niente, senza niente di che, toglimi il respiro. Apnea. Questo era il pezzo scelto dalla nostra Alice, che qui accanto a me raccontava i suoi consigli sulla bellezza, sue creme utili, questa volta un po' più alle donne, anche se poi tendenzialmente abbiamo raccontato in altre puntate di prodotti che anche gli uomini possono usare, giusto? Sì. Perfetto. Allora, entriamo nel vivo della puntata, raccontiamo i nostri sogni. Ora ti faccio io direttamente la domanda e quindi puoi andare fino a quando te pare. Esatto. Allora, vai Ali, raccontiamo un tuo sogno. Allora, il mio sogno è di andare sia a ritornare, cioè, allora, ritornare in Africa. Esatto, perché non mi ricordo se l'anno scorso o la prima proprio stagione di Jolly Roger hai raccontato che eri stata con tutta la famiglia in Africa, cioè a noi hai fatto vedere anche delle foto che avevi all'epoca. Allora, quando sono andata in Africa, quei mesi che sono andata, i giorni che sono andata in Africa, il giorno che sono partita, che stavo in Africa, stavo... Eri contenta? Ero contenta. Senti, quando... Raccontiamo, allora. Vorresti ritornare e perché? Allora, ci voglio ritornare perché... perché purtroppo è la mia vacanza... Diciamo, non è solo la mia vacanza preferita. È la vacanza di mamma e di mia sorella e di papà preferita. È stata una lunga vacanza preferita. Però mi ci è piaciuta a tutti. Mi ricordo pure che tu quando raccontavi di questo tuo viaggio in Africa, raccontavi che in quel periodo hai anche ballato tanto quando sei stata in Africa, raccontavi dei balli che si fanno, giusto? Sì, allora là si fanno dei balli, e facendo dei balli si fanno dei balli di gruppo con una cassa, diciamo, una cassa. E lì si con una cassa che scarica le canzoni. Ok, senti lì, quando ci vorresti tornare? A breve oppure da qui fino ai prossimi 20 anni? È una cosa che vuoi fare a breve? Questo ritornare in Africa? Questo ritornare in Africa ci voglio ritornare presto. Ok. Senti, quindi che facciamo? Vogliamo raccontare, prima di salutare i nostri ascoltatori, i consigli per l'ATAC? Esatto. Bene, allora ti ripasso direttamente il microfono. Dai, Vai, dici tutto. Allora. Aggiorna gli ascoltatori che usano i mezzi pubblici. Dai, il mic. Allora, praticamente... praticamente la prima notizia è che questo venerdì non c'è stato nessun sciopero dei mezzi pubblici, è giusto. Vero? E quindi già questa è una notizia. Poi? Allora, sì, è vero, non c'è stato nessun sciopero. Ha ragione Pietro. Vai. Posso dire la verità, perché quando non ci sono scioperi va tutto quasi liscio. Va tutto quasi liscio, giusto? E va tutto quasi sotto controllo Che succede con l'ATAC? Che novità ci sono con l'ATAC? C'hai novità? Avevamo raccontato il discorso dei trenini la settimana scorsa, era 2 settimane fa appunto, di questa iniziativa di ATAC a sostegno della ricerca sui tumori. E quindi a noi ci ha fatto piacere riportare anche certe notizie che sono utili agli ascoltatori. Che altra notizia hai? Perché mi ricordo che ci eravamo sentiti e avevo detto, ci hai girato una notizia molto interessante. Praticamente quella notizia, quella interessante, è che praticamente hanno riaperto un parcheggio da 225 auto Dove? a Sabbia Sappè, alla metro B e a Laurentina, che Elena sicuramente Elena pure la conosce. Si conosce solo per sentito dire la Laurentina. Per sentire dire Laurentina Ma la poi conosce. una cosa volevo chiederti. Io stavo leggendo così, mi sembra, non mi ricordo se ieri mattina o stamattina, che l'anno prossimo ci sarà il giubileo, perché ricordiamo anche ai nostri ascoltatori, e quindi l'ADAC durante l'attesa di questo giubileo è impegnata a fare parecchi lavori. Speriamo di che però. Visto che c'è il giubileo, speriamo insomma che... Che lo rifanno. Ok, che rifanno, che risistemano un po' i vari autobus e i vari metro, giusto lì? Anche perché Certo. tu ci insegni, cioè insegni agli ascoltatori, sei quella che si muove più con i mezzi pubblici di tutti quanti noi sicuramente. E tante volte per... Veramente me l'ha insegnato Elena a prendere i mezzi pubblici. Però insomma, ringraziamo Elena che ti ha aiutato in questo percorso, però alla fine tu ti muovi comunque con i mezzi, quindi tu ci racconti dei disagi che ci sono ogni volta, i mezzi che non passano, l'autobus che si rompe e compagnia bella, e noi lo dobbiamo raccontare, giusto? Certo. Ok, allora mandiamo un altro pezzo che hai portato tu e poi ritorniamo sempre, proseguiamo a farci la nostra raccontata sui nostri sogni. Nella confusione, miliardi di persone, solo un'occasione qua giù. Tra l'azzurro e il buco nell'ozono, tra John Lennon, Paul e Yoko Ono. Il passato non dimentica, il futuro fa ginnastica, si prepara tutti i giorni per te. Canta un po' Albachiara, un po' My Way. Schiaccia il tasto Rec e il tasto Play. E poi così, tu sei qui, Natale in un qualsiasi lunedì. Udini che toglie le catene al mondo, in fondo un inganno non è, è solo una follia, un salto nel vento, un'ora nello spazio, un punto nel tempo, è un giorno che va via, un appuntamento, un battito perfetto. Platone, Botticelli, Damblè, la maieutica del fai da te. Vuoi morire, vivere con me. E poi così, il tuo ritorno, eclissi in un qualsiasi mezzogiorno, mi trasformo cercando luce in fondo al mondo insieme. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, un po' di problemini tecnici con la connessione, ma anche questo è il bello della diretta. Ritorniamo a raccontare un po' di cosette, cioè, è stato un cambio di mic nel frattempo, ci ha raggiunto il nostro amico Matteo, in attesa anche del nostro amico Lucone che prima o poi arriverà, così insomma, ci saluterà alla sua maniera. E allora niente, sto qua con il mio amico Matteo e raccontiamo, vado direttamente con la domanda. Raccontaci un tuo sogno, due tuoi sogni, vedi tu insomma. Io sono, buonasera, sono Matteo. Io mi racconto, ho fatto a bando di tupello. Questa mattina ho fatto con i cappuccini e caffè e tramezzini a tupello. E io ho racconto. Lui il lunedì e il venerdì lavora in un bar al Tufello e a questo un po' è legato anche il suo sogno. Qual è il tuo sogno? Io aprire il ristorante in bar. Allora, aspetta, fermaci uno. Spieghiamo un attimino. Visto che stai facendo questa nuova esperienza e tutto quanto, il tuo grande sogno sarebbe quello di aprire un ristorante o un bar. Bar. Io racconto, ho fatto preparato. E a questo ristorante cosa vogliamo cucinare? Racconta già, perché prima dovete sapere che dietro quando non eravamo in diretta, lui ci ha raccontato anche di alcuni piatti che vorrebbe cucinare. Vogliamo raccontare questo tuo sogno di cucina? Sì, io racconto, preparo le cose, le pizze, anche la pasta foglia con yottero, e con yottero cotto e rovetta. Io racconto, ho fatto un dolce, famoso, io mi sono trottata. Senti Ciccio, poi questo ristorante come lo chiamiamo? Io Parizza, vieni, Parizza. Come? Non ho capito. No, Da Parizza, ma da che? Ciccio. Da Ciccio lo chiamiamo. Da Dai, Ciccio. carino. Ti piace il nome? Da Ciccio il ristorante, l'osteria da Ciccio. Faremmo proprio grandi soldoni, prevedo. Senti, e quindi che dobbiamo fare? Cioè, questo sogno lo vorremmo realizzare, quindi dovremmo vincere un bel po' di soldi. Quindi tra un po' diamo i tuoi pronostici sulle partite, con la speranza appunto che magari qualcuno gioca, vince e ci regala due soldi per aprire sto ristorante. Però tu mi hai detto che ti volevi aprire anche che cosa? Un bar, io ho un bar, vabbè, Un bar dove, mi hai detto? a Tupello, perché io ho un bar aperto. Allora, lui dovrebbe aprire. Allora, un ristorante, osteria da Ciccio. E il bar come lo chiamiamo? Batteria. Un bar pasticceria, giusto? Quindi, cioè, proprio. Insomma, questi sogni sono legati tutto al discorso che devi cucinare. Ma a casa cucini? Vabbè, chiederemo a persone che ti frequentano direttamente. Ora mandiamo un pezzo musicale e poi ritorniamo sempre qui in diretta su Jolly Roger. Il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde, sempre più verde. E il cielo è blu, blu, blu, molto più blu, ancora più blu. Ehi, ma che ci fai qui da queste parti? Quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo dai per salutarci, non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano. Sogni che si perdono in mare, figli di un deserto lontano. Zitti, non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show. Non mi chiedere come sto, vorrei andare via, però la strada non porta a casa. Se la tua casa non sai qual è. Ma il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde, sempre più verde. E il cielo è blu, blu, blu, zona. Mi manca il mio quartiere, adesso c'è una sparatoria. Baby scappa via dal dance floor, sempre stessa storia. Di alzare un polverone non mi va, ma come fate a dire che qui è tutto normale? Per tracciare un confine con linee immaginarie bombardate un ospedale. Per un pezzo di terra o per un pezzo di pane non c'è mai pace. Ma il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde, sempre più verde. E il cielo è blu, blu, blu, molto più blu. Torniamo in diretta, questo è Jolly Roger, venerdì 1 marzo, non si dice, ma oggi è venerdì, soprattutto è marzo. E abbiamo raccontato il sogno di Matteo legato alla speranza, alla voglia di poter aprirsi un osteria barra ristorante da ciccio, gli abbiamo dato il nome, e il baretto pasticceria in quel del Tufello, quindi... Abbiamo detto anche che, appunto, visto che non c'avemo una lira manco, se a meno che non iniziamo a donare qualche parte del corpo, io una parte già l'ho donata. Ciccio, andiamo con i tuoi pronostici sulle partite e sul meteo. Prima il meteo e poi le partite, così almeno se qualcuno da casa vince, ha speranza di averci due soldini per intanto iniziare ad aprirci il ristorante e il baretto, ce l'abbiamo. Allora, Ciccio, allora... Questa settimana il tempo è stata una tragedia proprio, sì. Cioè ha piovuto ed è stato caldo, sì. Come sarà il weekend? Domani sabato nuvoloso. Ok, domenica invece? Nuvoloso, vero? Lunedì pioggia? Pioggia. E beh, forza, è lunedì. Senti, quindi che se può fare una passeggiatina al parco? Ma no! No, mai a casa, no. Mai a casa sul divano col plate. Sì. Ok, quindi tutti a casa, però ci stanno poche, ah no, ci stanno tante partite sto weekend pure, fino a lunedì ci stanno, poi ci stanno le varie coppe, vabbè senti, allora partiamo subito a bomba con le partite. Allora, io dico, Torino mia dea, Peter Torino, Piero. Perfetto, poi? No, Pietro Peter Napoli. Poi? Intendiamo Peter Lita. L'ultima partita? Non lo dico! Dilla, dilla! L'ottimo mio video! L'ha dichiarata lui, cari tifosi, qui intanto c'è un attimino di sobbalzo, però appunto, visto che la Lazio gioca stasera, restiamo comunque, anche perché c'è anche tanto traffico, come diceva Chiara, che deve andare allo stadio. Andiamo con il pezzo che porta il nostro amico Ciccio e poi ritorniamo in diretta qui. Oh. Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di fretta e mi hanno detto che la vita è preziosa. Io la indosso a testa alta sul collo, la mia collana non ha perle di saggezza. A me hanno dato le perline colorate per le bimbe incasinate con i traumi. Da snodare piano piano con l'età, eppure sta una pasqua guarda zero drammi. Quasi cambio di nuova città, che stare fermo a me mi viene la noia. Senza soffrire, non c'è croce più grande, non ci resta che ridere. In queste notti bruciate, una corona di spine, sarà il dress code per la mia festa. Ah, è la cumbia della noia. È la cumbia della noia. Oh, ah, è la cumbia della noia. Oh, nelle cose, vede il male, viene voglia di scappare come iniziano a parlare. E vorrei dirgli che sto bene, ma poi mi guardano male, allora dico che è difficile campare. Business, parli di business, intanto chiudo gli occhi per firmare i contratti. Princess, ti chiamo princess, allora adesso smettila di lavare i piatti. Muoio senza morire, in questi giorni usati, vivo senza soffrire. Non c'è croce più grande, non ci resta che ridere, in queste notti bruciate. Torniamo in diretta, questo è Jolly Roger, stiamo raccontando i nostri sogni e le nostre speranze. Allora, Matteo ci ha raccontato, anzi partiamo proprio dall'origine, Alice ci ha raccontato della sua voglia e desiderio di ritornare in Africa, il nostro amico Matteo la sua speranza e voglia e sogno di aprirsi un ristorante barra bar, pasticceria anche. E ora tocca l'ultimo rimasto, ma non per simpatia, ma per un ordine cronologico, il nostro amico Luchino, e gli passo direttamente il mic. Buonasera a tutti, io sono Luca e oggi, insomma, io ho portato un argomento per tutti, ovvero qual è il tuo sogno. Volevo fare una domanda a te sui sogni, caro Pietruzzo. Quali sono i tuoi sogni? Quali sono i tuoi sogni che vorresti realizzare in assoluto? Vabbè, cioè, nonostante la tenera età, i sogni sono tanti. Ma in questo momento il sogno più ricorrente è quello di fare tanti soldi. No, non è vero. È quello, obiettivamente, di farmi un bel viaggio, girare su posti dove non sono mai stato. Magari, appunto, ieri con altre persone che mi sono visto, insomma, si parlava anche di India, quindi perché no, un bel viaggio anche spirituale, che in questo momento magari fa sempre bene. Invece il tuo, Luchi? Allora, io ce n'ho ben 5. Allora, il primo è... Aspetta, bello, qui non è che puoi fare, io sono arrivato, ce n'ho 5, sta a fare splendido, splendente. 1/2. Allora, io decido di andare a fare una crociera... MSC con Chiara, Elena, Pietro, anche loro ovviamente. Vorrei portare anche, non lo so, tante ragazze con i loro ragazzi, quindi coppie, facendo una grande crociera. Citando un personaggio molto importante, maschi che maschi, femmine che femmine, uomo una donna uomo, una uomo, ok, una crociera così, insomma. Sì, la destinazione sarà i Caraibi, staremo per ben 7 giorni, ben 12 giorni in crociera e poi ci faremo una suite in hotel. Sì, e poi arrestano, quindi quando ti sei svegliato ti hanno arrestato, ok, quindi vabbè, però... Il tuo desiderio, cioè il tuo sogno è quello di fare una crociera, quindi ti piacerebbe provare l'essere cullato dalle onde del mare per 12 giorni. Poi un altro sogno? Guardare, insomma, allora, siccome io adesso non ho soldi, prima c'avevo 300 e passa. Vedi come dicevamo, cioè tutti sogniamo di fare soldi, anche se poi non li famo mai. Ovviamente, visto che... questo momento non uso più la PlayStation 4 a casa, non mi frega più di quella, non l'ho più usata, anche se in effetti ci proverò. Io decido di vendere i videogiochi, c'è un sacco di portare, ovviamente da GameStop c'è un sacco di soldi. E quindi arriviamo al dunque, il tuo sogno? Avere tanti soldi, vendere le cose che non userò più. Poi con mio padre 250 a fine mese, 15 mio padre. Se abbatta l'affitto a tuo padre? Desidero avere 1600 euro, almeno posso comprare quello che pare. Sì, perché d'altronde, cioè, con meno di 1600 euro non si campa al mondo. Ovviamente con tantissimi soldi li offrirò anche a Chiara per l'affitto della casa. Ok, guarda quanto è proprio di cuore, cioè, dovremmo inginocchiarci e quasi ringraziare la bontà di cuore. Senti, mandiamo il pezzo che hai portato tu e poi ritorniamo con le tue rubriche sui consigli per gli acquisti e la tua rubrica must, che è quella delle battute. Presenti tu il pezzo? Mahmood, Tuta Gold, Sanremo 2024. Se partirò a Budapest ti ricorderai dei giorni in tenda, quella moonlight, fumando fino all'alba. Non cambierai e non cambierò, fottendomi la testa in un night. Soffrire può sembrare un po' fake, se curi le tue lacrime ad un rave. Sui denti blu jeans, non paragonarmi a una bitch così. Non era abbastanza noi sali sulla Jeep, ma non sono bravo a rincorrere. 5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò. Parlavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra. Con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà. Mi basterà, ricorderò i cileni ripieni di zucchero. Cambio il numero. 5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò. Dov'è la fiducia diventata rida? È come l'aria del Sahara. Mi raccontavi storie di gente senza dire mai il nome, nome, nome, come l'amico tuo in prigione. Ma a stare nel quartiere serve fottuta personalità. Se partirò, sono bravo a correre. 5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò. Parlavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra. Con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà. Mi basterà, ricorderò i cileni ripieni di zucchero. Cambio numero. 5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò. Mi hanno fatto bene le offese, quando fuori dalle medie le ho prese, ho pianto. Dicevi ritornate nel tuo paese, lo sai che non porto rancore. Anche se papà mi richiederà di cambiare cognome. Parlavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra. Con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà. Mi basterà, ricorderò i cileni ripieni di zucchero. Cambio il numero. 5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò. E ritorniamo in diretto, questo è il primo pezzo. Nel frattempo ho visto anche un mezzo accenno di balletto, però non se n'era accorto, gli era partita l'anchetta al nostro amico Luchino. Allora, abbiamo parlato di sogni, quindi proseguiamo con le due consuete rubriche sui consigli per gli acquisti, giusto? Ribadendo che non facciamo pubblicità, perché noi in tutto ciò non ci pigliamo manco una merendina, giusto? Sì. Offerte il Castoro, Pepsi Cola, cassa da 4 bottiglie, da 1 litro e 5, a 3,29€, meno 40% di sconto. Tonno di mare, a 7,49€, meno 30% di sconto. Cirio Pelati a 1,39 euro, meno 30% di sconto. Castoro, il supermercato animale del Gross Gruppo Romano. Mazza, io al Grosso ci devo passare, che sennò stasera non si mangia. Quindi, anche perché è l'unico obiettivamente che sta vicino a casa mia, quindi non gli sto a fare pubblicità. Detto questo, andiamo con le battute o andiamo con un altro pezzo? Un altro pezzo e poi battute. Perfetto, andiamo, famo prima come dice il nostro amico Luchino. Baby, I like you so. Grips on your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. E ritorniamo in diretta, ultimi minuti, siamo quasi alla fine della nostra puntata, non è vero, mancano circa 10 minuti, però ci addentriamo lentamente, abbiamo raccontato dei sogni, delle nostre delle speranze un po' di tutti quanti, e andiamo con le battute, Luchi? Sì. Di cognome faceva guasto, non gli citofonava nessuno. Mele al tempo di Adamo ed Eva, l'ira di Dio. Amore mio, non piangere, diventi brutta quando piangi. Ma io non sto piangendo. Ah, ok. Perfetto, questa è sono la rubrica, diciamo, più richiesta dagli ascoltatori, insomma. Dove dire qualcosa, Luchi? No, a posto così. Qualche saluto, ringraziamento. Prima sì. Parlavamo, di solito fai sempre dei saluti. Ciao a tutti, vi auguro un buon weekend. Un bacione a tutti quanti. Un saluto a Madrone Pedella e tutti quanti le persone di Welcome. Perfetto, bravo, bravo. Vedi, ha ricordato anche i nostri amici di Welcome. A breve spoileremo una nuova collaborazione mensile con i nostri amici di Welcome, ma intanto andiamo con un altro pezzo musicale. Fuggi in Italia, pistole in macchine, in Italia, Machiavelli e Foscolo, in Italia, i campioni del mondo sono in Italia. Benvenuto in Italia, fatti una vacanza al mare, in Italia, meglio non farti operare, in Italia e non andare all'ospedale, in Italia. La bella vita in Italia, le grandi serate in gala, in Italia, fai affari con la mala, in Italia, il vicino che ti spara, in Italia. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Dov'è? Fuggi dall'Italia, elegante borsa Gucci, dall'Italia, Ferrari e Lamborghini, dall'Italia, è pieno di magrebini, in Italia, come fascisti e razzisti al comando in Italia, ti accendi una canna, puoi finire in una gabbia, prendi una condanna che non vedi più tua mamma, dal 2024 al 2040, non è Chicago né Atlanta, ma siamo in Italia, paese dei corrotti della mafia, dove i tuoi soldi non sono sicuri in banca, perché da un giorno all'altro possono finire in tasca. Non è Renato Valanzasca che è in tasca, ma qua chi ci rapina sta in giacca e cravatta. Lo Stato ci discrimina soltanto per la faccia. Lo sanno che una penna può far più male di un'arma. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Dov'è? Fuggi, c'è una guerra ogni giorno al telegiornale. Se fai soldi in Italia c'è contro tutti. Scendi in strada con gli amici a festeggiare, mani in alto puoi finire come Cookie. Per l'industria c'è una mente militare, Metal Jacket sembra un film di Stanley Kubrick. Dimmi ancora quante rime devo fare per sentirmi dire sei speciale. Quante rime devo fare per non finire a un talent, per non rubare, non spacciare, non sparare. Perdo la fede, è un reato federale. Peggio la rete o finire nelle retate, nelle mani sbagliate, alto la tortora. Una pioggia di lacrime color porpora, qui brucia la speranza, quindi bro soffoca. Sei nato e morto qua, nato qua e morto qua. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. E ritorniamo in diretta. Nel frattempo è arrivato anche il nostro amico Lucone. Un po' ci eravamo preoccupati perché la puntata sta arrivando alla conclusione, quasi ai saluti finali, e ci sembrava strano non vedere il nostro amico Lucone, che è bello come il sole, e infatti ha smesso anche di piovere. E Luco, dove stai? Vieni un attimo qua, vieni a salutarci, visto che è tanto che non ci vediamo. Un saluto, vedi tu, io ti passo il microfono e fai tu. Dobbiuto. Perfetto, allora poi lo ammiro perché è vestito veramente da degno romanista nonché romano. Detto questo, andiamo con un altro pezzo e poi andiamo direttamente con i nostri saluti. Piano piano siamo arrivati ai saluti finali, è stata una puntata piacevole. Ciccio, non ti zoppa che ti damo una lira, che poi di zoppo ci sto io e basta. Quindi niente, salutiamo, è stato un piacere aver condiviso con tutti quanti quest'ora di Jolly Roger. Io saluto tutte le amiche e tutti gli amici che ci ascoltano, un buon weekend a tutti e a tutte, e ora passo il mic. Ciao a tutti, grazie tante per essere stati qui con noi e a venerdì prossimo con nuovi argomenti. Ciao! Ciao! Allora, buon weekend a tutti e a tutte. Ci potete riascoltare tramite podcast, seguite sui nostri canali social e ancora buon weekend a tutti e a tutte. Life, me try forget my pressure now ease up no matter how hard me try. Big city life, here my heart have no base, and right now Babylon dip on me case. Big city life, try forget my pressure now ease up no matter how hard me try. Big city life, my heart have no base, and right now Babylon dip on me case. Sing right. ganze Leid. Me try forget my pressure now ease up no matter how hard me try. Big city life in my heart have no base. And right now Babylon dep on me case. Big city life. Try forget my pressure now ease up no matter how hard me try. Big city life. My heart have no base. And right now Babylon dep on me case. Soon our work is done. Across the seas and the oceans, a permanent itinerant is what I've chosen. I find myself in a big city prison, arisen from the vision of mankind, designed to keep me discreetly, neatly in the corner. You find me with the flora and the fauna and the hardship. Back a yard is where my heart is. Still I find it hard to depart this big city life. Big city life, me try forget my pressure now ease up no matter how hard me try. Big city life in my heart, I've